potere in questa eterna Babele di uomini senza pudore, dove la giustizia dipende dal conto e dal colore. Sai qual è la tentazione? Abbandonarsi alla corrente senza un'opinione. Buona o cattiva che sia, cerca la tua idea, giusta o sbagliata che sia, trova la tua idea, abbi il coraggio di conoscere. Di sabbia, di sangue e sudore, dove se la terra trema c'è chi la notte ride. In questa consorteria di uomini sotto padrone, squali avventati su chi sta già per affogare. Sai qual è la preoccupazione? Non riuscire più a sentire l'indignazione. Cerca la tua idea, giusta o sbagliata che sia, cerca la tua idea. Abbi il coraggio di conoscere.